E vogliamo cominciare subito a mandare uno dei contributi che abbiamo ricevuto? Mandiamo uno dei contributi. Magari facciamo una piccola intro, nel senso che prima di tutto, oggi, 1° maggio, è chiamata internazionale alla lotta femminista transnazionale. Abbiamo lanciato un appello appunto transnazionale, che è stato sottoscritto da le reti delle compagne della rete internazionale Ni Una Menos di tutto il mondo, e che appunto chiamava prima di tutto al ruidazzo transnazionale alle 18, per questo abbiamo fatto un gran casino, e noi insomma poi abbiamo pensato anche di raccogliere un pochino le testimonianze di tutto quello che è successo oggi in città e non solo. E infatti il primo audio che vi mandiamo arriva dal Messico, da Città del Messico, da una compagna di Nina Menos, che ci racconta appunto come è stato raccolto questo appello internazionale. Allora, questo 8 maggio femminista messicano si disegna lungo due rotte: forza trasfronterisa, fuerza trasfronterisa e memoria collettiva. Ma voglio incominciare a parlarvi di quello che noi intendiamo come memoria collettiva. Allora, può sembrare un po' strano che il 1° di maggio femminista messicano abbia come una delle sue parole chiavi la memoria, però per noi la memoria è un ricorso non del passato ma del futuro, è quello che non si può scordare delle lotte femministe, è quella e non si può cancellare perché è già nel futuro. In un presente in cui la società dimentica, rimuove, noi scommettiamo sulla memoria collettiva come vincolo sociale. Sempre gridiamo, insistir e nel ricordar collettivamente, insistere nel ricordare collettivamente. Ed è per questo che, per esempio, alcune azioni, perlomeno a Città del Messico dove abito, saranno naturalmente a livello virtuale, perché anche qui siamo in pandemia, In una chiusura forzata, perlomeno quelle che se lo possono permettere, e la dedicheremo a Lesbi e a Aide, due compagne vittime di femminicidio, e insistiamo nel ricordare collettivamente la memoria, in quella memoria che è già nel futuro. Seconda parola chiave è forza trasfronterisa. Abbiamo firmato il manifesto femminista trasfronterizo, perché naturalmente il lema e il tema chiave è non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema. Sottoscriviamo dal Messico e soprattutto affermiamo che il coronavirus e la pandemia e le chiusure hanno colpito in maniera differenziale tutti e tutte. Tutte, soprattutto quelle che sono rimaste chiuse dentro casa. Basti citare che marzo, che è stato il primo mese della chiusura in Messico, è stato il mese più violento per le donne negli ultimi 4 anni, quindi le statistiche sfortunatamente ci hanno dato ragione da subito. Però è proprio nelle tensioni e nelle fratture aperte da questa crisi che stiamo cercando nuove forme di resistenza e di solidarietà, e ci sono tante. Per esempio, a Città del Messico stiamo creando tutta una rete per aiutare le sexy workers, perché loro hanno perso nello stesso giorno casa e lavoro. Si sono chiusi gli hotel dove lavoravano, che per la maggior parte di loro erano anche le loro case. Immediatamente si è attivato una rete per preparare cibo in casa e perlomeno portargli cibo, visto che da loro dipendono i loro figli, le loro figlie e i loro genitori più anziani. Piccoli gesti solidari che però cambiano l'esistenza quotidiana. Però non è soltanto questo, perché comunque si sono aperti anche dibattiti in rete, e naturalmente tutte le iniziative in rete che ci sono negli altri paesi latinoamericani per descrivere come questa volta non militarizzeranno il territorio, come questa volta non ci chiuderanno in casa, come i nostri corpi, anche se poche volte al giorno, usciranno lo stesso. In bici, a piedi, poco a poco durante le settimane, ma non se ne andranno. Ecco, siamo tornate. Volevo tornare in diretta dicendo buon 25 novembre, così da confondere le idee, ma mi pareva troppo situazionista. C'è della confusione, Marta, cioè, no, è il primo maggio, è la festa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e che oggi purtroppo stiamo vivendo un po' separate, ma diciamo più di prima congiunte dal desiderio di cambiare tutto. Allora, diamo i nostri soliti contatti? Vai, Madu. Allora, contribuite alla radio sia con questo nuovo strumento che è il gruppo Telegram, inviandoci audio, sia mandandoli alla nostra mail che è nonunadimenomilano@gmail.com e seguiteci sui nostri canali social che sono sempre nonunadimenomilano divisi da un trattino o da un punto. Vai, Fede. E gli altri contatti che vogliamo darvi, visto che sappiamo che non è sempre sicura la casa, soprattutto in tempi di quarantena, sono i contatti contro la violenza domestica, quindi c'è il sito direcontrolaviolenza.it, il numero della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, che è lo 02 55 01 55 19, e il numero nazionale, che è il 1522. Oltre a questo, visto che è in tempo di quarantena, perché non perdere l'occasione per attaccare il diritto all'aborto, visto che lo stanno attaccando, abbiamo un canale fatto da Obiezione Respinta che trovate su Telegram, che si chiama SOS Aborto underscore COVID-19. Trovate la pagina su Facebook che è Obiezione Respinta, allo stesso modo su Instagram obiezione.respinta. Potete anche chiamare un numero di telefono che è attivo 24 ore su 24, che è il 331-96-34889. Grazie Fede e grazie Madù. E last but not least, non una di meno, Milano ha recentissimamente attivato un nuovo servizio che chiamiamo Raccontiamocela e ve lo facciamo sentire direttamente dalle vive voci delle nostre compagne. Ti stai rompendo? Rompi l'isolamento con noi. Chiamaci al 324-0909-917 tutti i martedì dalle 17 alle 19 o scrivici alla mail raccontiamocela@chiocciolaautistiche.org. Lascia il tuo telefono, ti richiameremo il martedì. Siamo non una di meno, non un servizio specialistico. Vogliamo evitare di perdere il senso di comunità o lasciare qualcuna da sola. Raccontiamocela. Parliamo anche spagnolo, portoghese, inglese e francese. Dovete andare a casa, dovete andare a casa. spontaneo. Vi abbiamo subito mandato in pompetta la sputas domestica. E siccome ce le abbiamo in diretta con noi, magari ci dicono due cose su questo pezzo. Ma allora, sì, siccome è periodo di grosse petizioni, perché non si può stare, diciamo, in piazza, allora con Elisatron, che è qui con noi, abbiamo pensato di inviare invece una canzone al Ministero della Salute per chiedere, appunto, come potete intuire ascoltando la canzone, diciamo, le dimissioni della Regione Lombardia. Ci hanno pure risposto chiedendoci: ma chi sono questi? Quindi abbiamo capito che siamo proprio, diciamo, in una condizione disperata, direi. Ridiamo per non piangere. Siamo pronte alla fine della quarantena a farlo in diretta sotto la Regione, live. Non vediamo l'ora. Ah, giusto. Non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora di sbloccare il lockdown con la sputas domestica sotto la Regione Lombardia. Va bene. Primo maggio, torniamo sul pezzo. Primo maggio, festa, ma in realtà giornata di lotta. Sì. E intanto abbiamo ricevuto decine e decine di contributi, quindi grazie, e adesso pian piano cominciamo a mandarveli. Allora, uno dei primissimi contributi che ci è arrivato e che quindi vi mandiamo subito, ce l'hanno mandato le compagne e i compagni della CUB, dalla voce di Asal. E per noi questa è anche occasione per raccontare che ormai da pochissimo, circa un quarto d'ora, dovrebbe essere finito questa chiamata collettiva che è stata lanciata proprio sul primo maggio, andata in diretta su Radio Onda d'Urto, e come dire, questo per anticipare un pochino anche il vocale che mandiamo. Vale, non so se tu volevi aggiungere qualcosa. Ma in realtà non c'è molto da aggiungere, nel senso che sicuramente è stata una chiamata molto aperta a tutta la città, hanno partecipato diverse realtà, siamo intervenute anche noi, ma c'erano anche le comunità che animano insieme a noi le lotte degli ultimi anni, quindi la comunità curda, la comunità palestinese, vari coordinamenti studenteschi, quindi sicuramente una chiamata aperta. Io dicevo primo maggio di lotta perché è vero che siamo a casa, ma come dimostrano i tanti contributi che ci sono arrivati, in realtà questa è stata una giornata attraversata nel segno della lotta, dalla riunione alla CUB, alle brigate, alle staffette che si muovono nel territorio, agli interventi sul lavoro di cura, poi saranno tutte cose di cui parleremo, però ecco, dare la parola ad Asal, iniziare da lei, è proprio per segnare qualcosa che non si dice mai, nel senso festa sì, ma in realtà lotta, perché le condizioni del nostro paese dal punto di vista lavorativo e di cosa viene considerato lavoro e di come viene considerato il lavoro sono drammatiche, e questa situazione le ha messe ancora più in evidenza. Dalla pandemia, sì, io diciamo, possiamo sicuramente dire che questa giornata del primo maggio, seppur ha dovuto rinunciare a, come dire, ai corpi in lotta nelle strade, ha però cercato tutte le strade possibili per non lasciare questa giornata vuota, per non permettere la militarizzazione della giornata, e lo diceva anche la compagna messicana, l'accompagnerà al Messico nel suo primo audio. Il tentativo è stato quello, comunque nel corso di tutta la giornata, e poi lo vedremo, ci sono arrivate decine e decine di immagini, dei cartelli, del tentativo di far comunque parlare le strade della città, delle nostre lotte, anche perché appunto la pandemia non ha fatto che aggravare la situazione. Direi che possiamo sentire Asal e poi torniamo. 1 maggio, giornata internazionale dei lavoratori. Per via della pandemia non possiamo scendere in piazza, ma questo non è una ragione per trascurare la nostra lotta. Noi come sindacato CUP e tutte le realtà milanesi ci siamo organizzati per un 1 maggio virtuale in collegamento con Radio Onda d'Urto, Radio Blackout e Radio Vomero. Dalle ore 15 alle ore 18 denunceremo quello che sta accadendo ai lavoratori e alle lavoratrici. Durante l'isolamento della crisi da Covid-19 cresce la violenza contro le donne e i bambini. Non sono state prese misure per la protezione di donne e bambini, sono invece sovraccaricate strutture come telefoni di emergenza e casa per le donne. La solidarietà sociale viene ostacolata creando uno stato parallelo. Questa è una mentalità che vede se stessi come padroni della società e il popolo come dei soggetti. Mentre il sistema capitalistico dominato dalla mentalità maschile non offre nessuna soluzione ai lavoratori e alle lavoratrici, da un certo punto di vista il governo pone tutte le responsabilità sulla gente, in modo particolare sulle donne, affermando che ciascuno dovrebbe assumere le proprie precauzioni per contrastare la pandemia di Covid-19. Noi staremo fianco a fianco contro coloro che non esitano a lasciare i lavoratori alla morte, condannano le donne alla povertà e aumentano lo sfruttamento domestico della donna per consentire al capitalismo di vivere. Viva il 1 maggio, viva la rivoluzione delle donne. Viva il 1 maggio, viva la rivoluzione delle donne. Grazie Asal. Allora, dicevamo, decine e decine di contributi abbiamo ricevuto e quindi ve li manderemo anche, come dire, un po' a ruota libera. Lo dicevamo forse all'inizio, nella Milano in lockdown, che però non ferma la produzione, quella che non si è fermata però è anche e soprattutto la solidarietà e il mutuo soccorso. Quindi direi, se siete d'accordo, cominciamo a mandare uno dei primi audio che abbiamo ricevuto dalle brigate? Sì, mandiamo uno di quegli audio. Dai, allora vi mandiamo le brigate e poi torniamo in onda, anche per non dare per scontato che tutte, tutti e tutto sappiano chi sono le brigate e cosa stanno facendo. Ciao a tutte, tutti e tutto, sono Sofia Blu e vi parlo da Zona 4. Oggi qua abbiamo fatto una consegna un po' speciale, nel senso che abbiamo deciso anche oggi di portare i pacchi alle famiglie, alle persone che in questo momento sono in grande difficoltà economica, perché vabbè, questo è un 1 maggio un po' particolare, le persone appunto sono a casa, moltissimi senza alcun tipo di reddito e c'è un forte bisogno, lo stiamo riscontrando quotidianamente. Abbiamo deciso di fare questa consegna in un modo un po' particolare, ci siamo riunite fra volontari appunto della Brigata Ho Chi Minh, della Brigata Ardita, della Brigata Nori Brambilla e abbiamo preso le bici e siamo andate appunto a fare queste consegne tutte insieme, prendendoci anche un pezzo di strada appunto con le dovute distanze. Indossando dei cartelli che citano frasi come il lavoro di cura va riconosciuto e retribuito. Sappiamo benissimo che il lavoro di cura è qualcosa che viene svolto quotidianamente e spesso non viene riconosciuto né tantomeno retribuito. Quello che stanno facendo le brigate attraverso moltissimi e diversi mezzi è un lavoro di cura e crediamo che sia anche fondamentale ricordare, come abbiamo scritto, che deve finire il ricatto fra salute e salario. Moltissimi operai e operaie hanno perso la vita in questi mesi o sono stati ammalati perché non si sono appunto pensate delle giuste misure di sicurezza e soprattutto molte fabbriche sono rimaste aperte, presto riapriranno e questo potrebbe essere un grandissimo problema. Poi abbiamo scritto anche sanità pubblica, accessibilità ai servizi per tutti e tutte, perché sappiamo appunto che anni di tagli alla sanità pubblica hanno portato a questa situazione. Abbiamo deciso appunto di veicolare questi messaggi in quei quartieri dove quotidianamente stiamo portando un aiuto in questo momento di difficoltà economica, e continueremo a farlo. Per noi è molto importante che una giornata come oggi sia una giornata in cui vengono veicolati dei messaggi, appunto nelle maniere in cui possiamo farlo in questo momento di crisi sanitaria, e crediamo anche appunto che è importante riuscire a iniziare ad analizzare e capire insieme quali sono le problematiche e riuscire a farle arrivare anche alle persone a cui appunto andiamo a portare pacchi alimentari e beni di altro tipo. Quindi da zona 4 vi salutiamo, le brigate volontarie ringraziano anche questa possibilità appunto di poter portare dei contributi e delle testimonianze, e un abbraccio e non una di meno, a presto. Allora, grazie a Sofia, grazie alla brigata di zona 4 e alla brigata Ho Chi Minh, ma a tutte le brigate che in questi mesi hanno fatto la differenza per davvero. Beh sì, anche perché le brigate secondo me sono veramente un buon esempio pratico di, a me verrebbe da dire, di cura collettiva, no? Ci si prende cura a prescindere dal proprio genere, ci si prende cura delle altre persone e vale più di tanti discorsi teorici. È un esempio pratico che spero continuerà o comunque si ramificherà in qualche modo, però sì, considerando dove viviamo e l'individualismo che c'è in questo paese. Vale, hai detto una delle parole magiche, nel senso che come non una di meno, come non una di meno Milano in particolare, abbiamo cercato di spingere due parole, due concetti chiave per noi di questo primo maggio in quarantena. La prima cosa a cui teniamo in modo particolare è il reddito di autodeterminazione. Il reddito di autodeterminazione è una delle rivendicazioni più forti contenute nel piano contro la violenza sulle donne di genere, e mai come oggi torna in modo dirompente ad essere attuale e necessario. E l'altra invece concetto che c'è sempre particolarmente caro è quello proprio del lavoro di cura, che è lavoro, e quindi oggi primo maggio, festa dei lavoratori e delle lavoratrici, come dire, deve essere anche una giornata in cui lo ribadiamo chiaro e forte che il lavoro di cura è lavoro, produce valore, e ancora una volta in quarantena questo lockdown ha dimostrato come il lavoro di cura in un paese, soprattutto come dire, dal welfare familistico come l'Italia, non può che essere piombato a 2000 all'ora sulle spalle delle donne che sono state letteralmente abbandonate dallo Stato per quanto riguarda tutto questo tema, in particolare per quanto riguarda il tema dell'educazione delle creature, che sappiamo sono state a dir poco dimenticate da tutta la retorica anche che è circolata intorno alla pandemia e al lockdown. Beh, anche mi veniva in mente, senza contare che le altre conseguenze derivanti da poi la monetarizzazione, no? Che a un certo punto si è fatta del lavoro di cura, soprattutto nei paesi occidentali, e quindi che passa attraverso lo sfruttamento delle donne migranti. Le conseguenze di questo lockdown ovviamente si abbattono anche su di loro, e che vanno verso una condizione di impoverimento drammatico, visto che lavoravano in condizioni di sfruttamento, ma in questo momento molte sono a casa senza nessuna misura che le sostenga. Su questo poi sappiate, ve l'abbiamo detto, abbiamo 12 milioni di contributi, a un certo punto vi manderemo anche una meravigliosa lettura che ha fatto Ludo, una nostra compagna di Angela Davis, che parla proprio di questo, del lavoro di cura, ma ne abbiamo a pacchi anche su questo tema. Va bene, continuiamo con i contributi? Sì, ragazze, non mi ricordo più. Ci siamo perse, no, io manderei Aiuto. Abbiamo detto cicchi cicchi. No, prima avevamo detto staffette, poi dopo le staffette cicchi cicchi. Era la voglia della festa. Allora facciamo così, mandiamo il contributo che ci è arrivato dalle staffette, da SMS, dal cantiere, e subito dopo vi mandiamo una chicca direttamente dall'Euromay Day del 2008. E poi torniamo in diretta e continuiamo con gli sproloqui. Staffette. Buon primo maggio di lotta a tutte, tutto e tutti. Vi stiamo parlando dallo spazio di Mutuo Soccorso in piazza Stuparic 18. Siamo le staffette di Mutuo Soccorso. Noi ci occupiamo in particolare di consegnare spesa alle persone che in questo momento non possono uscire di casa. In particolare ci siamo occupate di mettere in relazione il nostro GASP, quindi il nostro gruppo di acquisto solidale popolare, con la possibilità di continuare a consegnare questi prodotti, che sono prodotti di produttori locali che sostengono la filiera corta e che soprattutto non vanno ad alimentare la grande distribuzione, che sicuramente è colpevole di sfruttamento e di inquinamento. Quindi se questo è un momento di crisi in cui cambiare il mondo che verrà, immaginarsi un mondo diverso, sicuramente da questo dobbiamo ripartire, e quindi per quanto ci riguarda è fondamentale fare questo tipo di sostegno. Oltre a questo portiamo delle spese solidali, potete contribuire alle spese sospese anche attraverso il nostro crowdfunding, che trovate sul sito cantiere.org. Oltre a questo le staffette si occupano anche di mantenere un Fab Lab, che è un laboratorio che attraverso le stampanti 3D produce delle attrezzature mediche per alcuni ospedali che, a causa soprattutto dei tagli alla sanità, in questo momento sono in grave crisi e hanno bisogno di attrezzatura, quindi siamo messi in rete con altri Fab Lab italiani. Inoltre abbiamo uno sportello di orientamento che ci occupiamo di mantenere in tantissime lingue diverse. Trovate le informazioni sui nostri social e sul nostro sito. È molto importante perché ci permette di mettere in relazione le persone con i servizi attivi in questo momento, sia per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda gli affitti e la casa, il diritto all'abitare, sia per quanto riguarda la violenza di genere, e quindi un aiuto a contattare i centri attivi, sia per quanto riguarda anche il tema dell'aiuto con la spesa, che sicuramente può passare anche da questo strumento. Oggi è il primo di maggio e le staffette hanno convocato tutte e tutti a partecipare alla prima e speriamo anche ultima May Day Quarantine, ovvero il primo maggio in quarantena. Una giornata in cui vogliamo rivendicare reddito e praticare mutuo soccorso. Due piani che sono potenti soprattutto quando convergono, insomma, no? Da un lato giusto rivendicare il reddito di autodeterminazione, reddito universale per tutte e tutti, dall'altra non abbiamo molta fiducia che dalle istituzioni arriverà qualcosa a breve termine. Quindi intanto ci rimbocchiamo le maniche e pratichiamo solidarietà attiva. Cosa vuol dire? Abbiamo chiesto a tante persone di aiutarci a raccogliere spese solidali, ne sono arrivate tantissime, per questo siamo molto felici, e abbiamo chiesto anche di diventare staffette e mettersi a disposizione per pedalare con noi. Oggi quindi stiamo portando spese solidali in tantissime zone della città soprattutto alle 18 ci fermeremo e parteciperemo con tutte le staffette al ruidazzo globale, al grande rumore globale promosso dalla rete Ni Una Menos per appunto pretendere un reddito di autodeterminazione per la libertà e la dignità di tutte e tutti, perché come dice l'appello non torneremo alla normalità, ma sicuramente non vogliamo nemmeno uscire da questa emergenza ancora più povere e precarie di come eravamo prima. Buon primo maggio a tutte e tutti e tutto. Ehi, sì. Precaria pelea. Pelea, pelea. Y el precariado mola mogollón. No son inmigrantes y viven donde yo. Dale papeles a esta morenita y a todos una casa digna y baratita. Lo bailan los quits, lo bailan estudiantes, lo bailan los manteros y también los canques. Lo bailan los artistas, lo bailan los currantes, las cuidadoras y todos los migrantes. Y el precariado dice así: 1. El copilet. 2. Una casita. 3. Los papeles. 4. El hula hop. Si estás trabajando o estás estudiando por no tener papeles, no te han dejado. Si tu cuerpo es diferente y quieres expresarte, este 1 de mayo no van a pararte. Si vamos todos juntos, precarios inmigrantes, esta situación va a tambalearse. Si vamos todas juntas, precarias inmigrantes, esta situación va a tambalearse. Mayday, mayday, mayday, mayday, mayday. 1. El copilet. 2. Una casita. 3. Los papeles. 4. ¡Mayday! ¡Sí, se puede! Mayday, mayday. Era il 2008 e constatiamo con tristezza che le rivendicazioni quelle sono. Una casa, il permesso di soggiorno. Che ricordi? Siamo anziane, se diciamo che ricordi? Diciamo che ci ha formato questo video, dai. Noi siamo anziane, ma però abbiamo avuto la fortuna di vederlo live. No, live no, ma insomma, quando apparve fu una folgorazione per tutte, no? Assolutamente, assolutamente. Va bene, allora abbiamo parlato del piano di Non Una di Meno, prima di appunto di ripassare attraverso il contributo delle staffette e poi il super Cichi Cichi. E non so, vogliamo riprenderlo? Vogliamo dire delle cose che dice il piano che vanno sempre bene? Ma assolutamente sì, perché per la serie che alla fine ci avevamo ragione noi, nel piano c'era già scritto tutto quanto, nel senso che innanzitutto per chi ci sta ascoltando e che non l'ha ancora letto e vorrebbe leggerlo, lo trova su nonunadimenomilanoblog.wordpress.com e lo trova, lo scarica in PDF e se lo legge con tanto amore. Abbiamo fatto un capitolo che è proprio libere dalla violenza economica, dallo sfruttamento e dalla precarietà. Pazzesco! Pensa! Ma è incredibile, ma poi ci sono anche dei sottocapitoli importanti, cioè la violenza di genere nella crisi, il mondo nel lavoro contemporaneo, è pazzesco, contro il welfare residuale neoliberale, ma che cosa? Chi l'avrebbe mai detto che una pandemia ci riduceva così, eh? È incredibile, c'è anche tutta una sezione sul mutualismo e la solidarietà, che abbiamo già sentito le testimonianze, quindi quello che diceva anche Vale prima, ma anche Marta, cioè il fatto che Non Una di Meno e tutte le pratiche che ci ruotano attorno non si distaccano dalla teoria ma utilizzano la teoria e la mettono in pratica, e poi finisce in un momento bellissimo questo capitolo che è lo sciopero femminista, che è la risposta sempre e comunque risposta. Assolutamente, va bene. Vogliamo continuare a mandare qualcuno dei contributi che ci sono arrivati? Sì, che sono tutti bellissimi, peraltro. Se, cosa faccio? Mando gli studenti? Mandiamo le studentu per l'emergenza, dai. Va bene. Ecco. Ciao a tutti e a tutte, sono Irene di Studenti per l'Emergenza. Da un po' di tempo stiamo lavorando con la Brigata Lina Modotti e una delle nostre attività principali consiste nella colletta alimentare, oltre che alla consegna di pasti caldi, mascherine, tablet e libri. Tutte queste attività hanno lo scopo di aiutare le persone e le famiglie con difficoltà economiche, preesistenti all'attuale crisi sanitaria e che si sono aggravate a causa della pandemia. Sebbene oggi sia la giornata dei lavoratori e delle lavoratrici, noi continuiamo a metterci a disposizione di tutte quelle persone che hanno perso il lavoro, prive di qualsiasi tipo di tutela da parte dei datori e dello Stato. In un giorno come questo è importante valorizzare il lavoratore, parte fondante della società, il quale deve essere identificato non come semplice individuo, bensì come persona avente dei diritti, che però spesso vengono riconosciuti solamente in modo formale e non sostanziale. Eccole. Eccole. Beh, questa cosa che anche studenti vari si siano attivati su questo campo, no? Sulla povertà strutturale che ci circonda è positivo. Sì, assolutamente. Dà anche buona speranza. Sì, anche perché, come dire, se lasciamo, come dire, l'educazione, la crescita collettiva a una scuola che in questo momento purtroppo non c'è, non lo so, li avevamo abbandonati a se stessi per mesi e mesi, invece come sempre, no, poi le risorse si trovano al proprio interno, e quindi figo, molto figo. Va bene, io continuerei con un altro contributo che ci è arrivato invece proprio dalle strade di Milano, e sentiamo dalla voce di Daniela cosa succede a Milano passeggiando per le strade il primo maggio. Care, cari, caru, oggi passeggiata tra Prato Centenario e Niguarda, a piedi, tranquilla, non si sono viste forze dell'ordine, e un po' qui, un po' là, appeso dei cartelli. Ovviamente sulla panchina rossa al giardinetto vicino a casa può starci solo un cartello che dice io mi amo, per questo l'8, per questo il primo maggio ancora l'8. Per il resto c'era in giro un po' di gente, qualche chiacchierata con le persone nel giardino di casa, tutti molto incavolati per la situazione, tutti che si sentono piuttosto presi in giro, a questo punto si sentono tutti veramente presi in giro, per la questione del lavoro, per il modo in cui ci stanno trattando, perché non si capisce niente, non si capisce se il 4 maggio ci vorrà ancora questa autocertificazione dentro la città o meno. Insomma, la gente è molto molto incavolata. Buona festa del lavoro a tutti, se così la possiamo chiamare, visto che oggi come oggi c'è molta gente che ha perso il lavoro, gente che è in cassa integrazione e non ha ancora ricevuto nulla. Se possiamo chiamarla festa del lavoro, oggi buona festa a tutti. Eccoci ancora, di nuovo qui. Sì, ancora una volta buona festa e buona lotta soprattutto. Ma a proposito del 4 maggio che diceva Daniela, a me verrebbe voglia di spostare questo primo maggio, no? O quantomeno di dedicarlo a quei 4 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che appunto il 4 maggio torneranno a lavorare, non si sa bene in quali condizioni. Cosa ne dite? Si può spostare il tempo? Bah, oddio, questa quarantena a me una delle cose che ha insegnato è che il tempo non esiste, più o meno, per cui spostiamolo, riprendiamocelo, famo un po' come ci pare. No, sì, sono d'accordo assolutamente, nel senso che il 4 maggio è dopodomani e, non so, la fase 2 assomiglia tanto a quella dei morti viventi, mi verrebbe da dire, con non troppo ottimismo. Sì, non so se avete visto che oggi ci sono stati anche degli scioperi di infermieri e personale medico che è uscito dagli ospedali e anche dei rider, ma soprattutto del personale medico che, insomma, rispetto a questo discorso di prima era interessante come appunto loro stessi siano molto preoccupati, no, della riapertura di tutto. E tra l'altro anche diciamo a Prato tutte le aziende e industrie cinesi non apriranno il 4 maggio, che questo fa molto ridere a me. Ma sì, scusatemi, adesso poi sempre per le citazioni ad minchiam, credo che, no, non ad minchiam, ci mancherebbe, anzi massimo rispetto, che una, come dire, delle letture più puntuali as usual ci è arrivata dalla puntata di Zero Calcare su appunto la fase 2, dove dice da un lato, no, questo esperimento di ingegneria sociale ACAS termina i vecchi che è stato fatto in Lombardia, e poi anche, come dire, questa arroganza, no, per cui, cioè, nonostante la Lombardia abbia dei numeri che continuano ad essere incredibili, allucinanti, spinga per riaprire prima di Prato, giusto appunto, o di Roma, dove la situazione dal punto di vista sanitario è un altro universo. Niente, ci facciamo sempre riconoscere. Esatto, mi ci metterei la mano sul fuoco che se la situazione fosse, diciamo, al contrario, cioè se la Campania fosse nella situazione della Lombardia, non sarebbe andata così. No, certo, ma la produzione prima di tutto. Anche dal punto di vista dei media, no? E della narrazione. Noi ne sappiamo qualcosa di narrazione tossica. Narrazione tossica c'è anche in questo senso spesso. Comunque non abbiamo un piano, cioè passare così a un piano 2 ci fa strano a tutte, semplicemente perché non c'è un piano 2, no? Non c'è stata una situazione che piano piano si è adeguata a un cambiamento nella società, nell'evoluzione di questa pandemia. Quindi essendo i numeri ancora molto alti, eccetera, la fase 2 lascia tutto un po' perplesso in questo senso. E io su questo... Scusatemi, no, sono entrata gamba tesissima, ma siccome mi sembrava che era un po' che non mandavamo musica, volevo mandare un pezzo che si chiama Revueltita. Cosa ne dite? Ah, sì. Dai, un po' di musica. Calle que mi zapa rota, decidí salir del barrio dueña de mi derrota. Violenta belleza la que corre por mis venas. Las tardes en la plaza ya nos pasaron factura. Quebraderos de cabeza y con los ojos como faros. Noches en vela como techo, nada raro. La muerte nos iguala, me da igual de donde venga. Mientras tu primo juega a ser leyenda. Y que pillo el coche y tiro pa' mi gueto. Revoltita como marejana. No me olvido, sé de dónde vengo. Mala clase dialéctica, los días de tristeza. Las penas a la espalda y con purrela en los bolsillos. Un pavo en pite, la sonrisa en los colmillos. Tira pa'lante y aprieta esos gatillos. Que aquí dentro no golpea sus nudillos. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio del corro. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio, más. Prefería la oscuridad porque nunca deja sombra. Porque en ella no se aprecia ni lo bueno ni lo bello. Aquello que no pueda llegar a mi memoria. Dejar a sonar en calma los latidos de ese cora y prensa. Que prendan un suspiro, que llene estos pulmones y se duerma mis sentidos. Que solo la alegría riegue nuestras mejillas. Que pique la garganta como gas de policía. Y una cabeza se levanta altiva, porque lo de diva más de cliché. Pa' los que me mentan, pa' los que me mienten. Calibre de 7 como bala bolchevique. Si aquí baila la reina, despejen toda la pista. No quiere ella invitados en su fiesta. Bienvenidas, sean las mías y su risa. Su risa, su risa, mi orquesta. Me dijo un mental, y mira tía, me presento. Vuelo, y en mi pecho reina el vuelco. Querían postureo, yo soy más de rodeos. No me sacan el veneno, no queriendo. Pierdo lo que quiero como pierdo los mecheros. Café y tachecha, cara perro. Un poquito rojo, no ladro, yo te muerdo, me ves agachadita, cojo un puso y salto al cuello. Amor para las hermanas, rabia para el enemigo. Por mucho que sonrían, no me fío, amigo. Larga vida al rollo bollo, cariño. Me quedo con las mías, con sus dramas y sus líos. No quisiera someterme y me planto yo en medio de este caos y me la sigo bailando. Birlando momenticos donde el cora peta fuerte. Se pagan alto, dime tú cuánto. Veo salir el sol por la rayita de la persiana. Yo me despierto por inercia, no por ganas. Tengo sueños preciosos que contrastan con la realidad. El mismo jarro de agua gélida cada mañana. Me pongo la radio para evadirme de mi movies. Trato no acordarme de lo que no tengo y tuve. Para escuchar mentiras ya me pongo la TV. Para vivir en paz pongo muy caja en el YouTube. Soy un animal de costumbres y de inquietudes. Padezco cada madrugón de taquicardia aguda. Para enterrar mi pena que pille entre ataúdes. Que sepan que aquí estuve por desgracia o por fortuna. Vine como miré más sola que la luna. Mundo de anteojeras porque mi jeto da pena. Pero hay algo pasa que no pesa la condena. Llega la chavala. Y arrancamos de una. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio del corro. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio, ma. Eccoci, tornate in diretta per questo primo maggio che in realtà è super partecipato anche se non siamo in piazza. Ci stanno arrivando un sacco di audio, un sacco di contributi, quindi alla fine la lotta continua e la lotta al padrone principalmente continua, quindi volevo portarvi un po' di cose che si sentono dai corridoi del lavoro, per cui quando si lavora in smart working non si è abbastanza produttivi. E non va bene questa cosa qui, perché ti serve l'ufficio per essere produttivo, quindi si tornerà negli uffici il prima possibile, perché così un po' ci sproniamo, ecco, perché dobbiamo produrre, produrre, produrre. E queste cose sentite con le mie sante orecchie, sembrano tutti un po' stanchi, ecco, non stanno producendo come prima. Queste sono tutte quante frasi magnifiche che ci ricorderemo anche dopo, ma ricordiamoci anche che in questo momento sta avvenendo una cosa che a me urta particolarmente, non so se anche a voi, per cui ci hanno tolto i buoni pasto. E lo so che sembra terra terra come cosa, però mi irrita molto che se in smart working non hai diritto ai buoni pasto, perché probabilmente non mangiamo in smart working, e sta andando avanti così, ci stanno togliendo continuamente qualcosa e sarà difficile dopo recuperare terreno su lotte che avevamo già fatto, che erano state fatte per noi, prima di noi, e dovremmo ricominciare dall'inizio. Ma sì, poi basta pensare, no, le richieste... persone in cassa integrazione a cui viene comunque chiesto di lavorare, ferie obbligate, sempre lavorando, perché appunto in smart working non si produce, vabbè, parolacce. Va bene, vogliamo, a proposito di, come dire, di lotte che sono state fatte prima di noi e per noi e che dovremmo riprendere lama tra i denti, vogliamo mandare una lettura, un contributo che ci è arrivato a questo proposito. Manderei Operaie Capitale e poi torniamo in diretta. Per lottare contro il capitale, la classe operaia deve lottare contro se stessa in quanto capitale. È il punto della massima contraddizione, non per gli operai, ma per i capitalisti. Basta esasperare questo punto, basta organizzare questa contraddizione e il sistema capitalistico non funziona più e il piano del capitale comincia a camminare all'indietro come processo rivoluzionario. Dobbiamo renderci conto che tutti i grandi problemi di organizzazione fondano la loro immane complessità politica su questo rapporto critico interno alla stessa classe operaia, che tanto più si approfondisce come problema irrisolto, quanto più la classe operaia cresce come forza dominante. È su questo che vanno puntate, d'ora in avanti, le armi affilate della teoria come le rozze armi materiali della pratica quotidiana. Del resto, anche qui, non c'è molto da inventare. Le forme moderne della lotta operaia nei paesi a grande capitalismo portano tutte come ricco contenuto della propria spontaneità la parola d'ordine della lotta contro il lavoro, come unico mezzo per colpire il capitale. Di nuovo, il partito si presenta come organizzazione di quello che nella classe già c'è, ma che la classe da sola non riesce a organizzare. Nessun operaio è oggi disposto a riconoscere l'esistenza del lavoro fuori dal capitale. Lavoro uguale sfruttamento. Questo è il presupposto logico e al tempo stesso il risultato storico della civiltà capitalistica. L'operaio non sa che farsene della dignità del lavoratore. E l'orgoglio del produttore lo lascia tutto quanto al padrone. E solo il padrone ci è rimasto a fare l'elogio del lavoro. Nel movimento operaio purtroppo ancora sì, ma nella classe operaia no, non c'è più posto per l'ideologia. La classe operaia oggi ha solo da guardare se stessa per capire il capitale, ha solo da combattere se stessa per distruggere il capitale. Deve riconoscersi come potenza politica, deve negarsi come forza produttiva. Il lavoro di fronte alla classe operaia e contro di essa, come un nemico, è dunque il punto di partenza non più solo per l'antagonismo, ma per la sua organizzazione. Se l'alienazione dell'operaio ha un senso, è quello di un grande fatto rivoluzionario. Ecco. Era Operaie Capitale di Mario Tronti, letto da Virginia, perché... Da casa arrivano apprezzamenti su questa lettura, scusa se ti ho interrotto, non ci tengo a dirlo. Manine che sventolano! Beh sì, perché è quello, no? È la lotta contro il lavoro, che a questo punto è sempre più essenziale. Va bene, come vogliamo continuare? Con questa puntata situazionista. Verrebbe da fare un aneddoto a proposito di primo maggio, se posso. Vai, vai, Eli. Vai con l'aneddoto. La chat di classe, che vabbè, non immaginate, se già era un delirio prima della scuola materna, vabbè. Niente, decidono di fare un meeting esattamente oggi, il primo maggio, cioè non si sono mai incontrati virtualmente, proprio il primo maggio decidono di vedersi bambini e maestri. Perfetto! Allora, butto lì dicendo, ma ragazze, ma... proprio come mai proprio il primo maggio, cioè in teoria le maestre dovrebbero essere in sciopero, cioè, so che è qui, tanto scusate il microfono qua, il microfono delira, e niente, quindi tutti hanno detto, ma no vabbè, ma è una cosa carina, bisognava vedersi il prima possibile, eccetera, quindi niente, vabbè, poi sorvolerò su come poi è andata, che è stato un delirio di tecnologia, veramente situazionismo puro, ecco, niente, quindi santo surreale. Cielo. Dove siamo finite. Esatto. Va bene, continuiamo con i contributi, visto che Eli con questo aneddoto ci ha riportate a parlare di una cosa di cui abbiamo, che abbiamo già buttato lì in questa prima oretta di diretta, che è quello che è successo in quarantena all'educazione, all'istruzione, la formazione a distanza, la scuola che non era assolutamente pronta. E se siete d'accordo manderei il contributo di una nostra compagna, anche insegnante, che ci racconta un pochino appunto che cosa è successo, che cosa sta succedendo, che cosa, cos'è l'insegnamento in epoca di quarantena e in vista anche della maturità, questa ormai sconosciuta, visto l'epoca che stiamo vivendo. Allora, ascoltiamo Bruna e poi torniamo. Ciao a tutte, a tutti e tutto, sono Bruna, sono insegnante di una scuola superiore di Milano e in tutto questo periodo, questi 2 mesi di emergenza sanitaria per il Covid-19, ho lavorato il triplo, facendolo anche volentieri, sostenendo comunque le mie studenti e studenti. E la cosa che mi preoccupa in questo periodo sono i 13.000 docenti e 500.000 studenti che tra un mese si dovranno recare a fare l'esame di maturità, un esame di maturità in presenza, senza alcuna concreta sanificazione degli ambienti, nel senso che sarà ben difficile che ci siano persone che possano sostenere le pulizie quotidiane per permettere un corretto svolgimento degli esami. Non saranno fatti tamponi per accertare che ci siano le giuste negatività al virus, non saranno fatti test sierologici, quindi non può essere garantita nessuna concreta sanificazione degli ambienti al momento. E quindi la mia preoccupazione è proprio volta a capire come si potrebbe sospendere in un qualche modo l'esame di maturità in presenza, viste le condizioni in cui ci ritroveremo ad operare. Eccoci. Eccoci di nuovo qui. No, oggi tra l'altro c'è stata anche un'azione, direi, bella a Roma, davanti alle scuole Diaz di Donato Mazzini e Toti, dove maestre e insegnanti sono, diciamo, hanno srotolato diversi cartelloni dove c'è scritto sopra: primo maggio femminista, Madu, ti sentiamo a scatti, purtroppissimo. Ai ai ai. Riprova, adesso. Vabbè, ti sentiamo bene. E il comunicato essenzialmente, come si diceva prima, appunto il titolo è "Senza le scuole non si torna al lavoro", e un po' mette in luce, no, le assenze di questa fase 2, no? Quindi dice di come non si sia detta una parola rispetto alle donne che, diciamo, rimarranno confinate nel lavoro domestico. Non si dice una parola sul corpo insegnanti, sempre più precarizzato e mercificato, non si dice nulla neanche sulla DAD e sulle persone vulnerabili e o più vulnerabili che con questa didattica, diciamo, hanno molte difficoltà, e soprattutto non si dice nulla di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dei loro diritti totalmente calpestati all'istruzione, alla socialità, ma soprattutto all'autonomia, no? Perché poi la scuola è anche un po' il luogo dove si esce dalla famiglia, cosa che purtroppo invece in questi giorni, diciamo, è l'aspetto che più è mancato. Ma tra l'altro parlavo con una compagna che lavora nell'editoria, questa è una cosa curiosa, purtroppo negativamente, però curiosa, e non ci si pone né per quanto riguarda i libri dell'infanzia della scuola primaria, ma nemmeno della scuola media inferiore, non ci si pone assolutamente un ripensare ai libri che di testo che usciranno, no? Anche in relazione un po' a quello che è successo, perché comunque anche le persone più piccole e più giovani saranno, no, influenzate da tutto questo. Il fatto che non si pensi anche a quel livello, come ripensare la didattica e i contenuti, è abbastanza allarmante. Sì. Senza aggiungere poi quello che diceva Bruna, la didattica a distanza, io sono insegnante e in questo momento è veramente di difficile gestione. Sì, e come dire, i temi poi sono 200-300, nel senso che da un lato c'è, come dire, tutto il posizionamento, appunto, adesso poi Mandu racconterà anche dell'azione fatta dal lato insegnamento, no? Dal lato delle insegnanti e degli insegnanti, dall'altro ci sono le creature, le ragazze, i ragazzi, i bambini, le bambine che appunto stanno in un limbo, no? Perché è evidente, cioè l'unica roba che è assolutamente evidente è che la scuola non era pronta e non è stata in grado di dare, se non, come dire, per la buona volontà delle singole e dei singoli, non è stata in grado di dare delle risposte adeguate. E infine c'è pure, lo abbiamo accennato prima, il lato delle famiglie che in smart working devono sostituirsi alla scuola, fai i compiti, il computer è uno solo, vabbè, il delirio. Sentite, in tutto questo, visto che abbiamo parlato di creature, delle responsabilità che abbiamo nei confronti delle creature, ma anche delle risorse che ci hanno le creature nostre, allora, e che è un po' che non ascoltiamo musica, manderei così un po' artigianale, con l'aiuto di Elisatron, costruito, cioè ripescato per mandarvelo, il pezzo di Fat Girl Slim che mixa sulle parole di Greta, è stato super virale, l'avrete vista, questa ragazza giovanissima avrà, non so, 10-12 anni, credo, non lo so, figlia del più noto Fatboy Slim, che mixa come se non ci fosse un domani e qualcuno disse, probabilmente ragionevolmente, che Fatboy Slim aprirà per lei a molto breve, perché lei veramente spacca. Ce la sentiamo e torniamo in diretta. One hop this time. This. Right foot, two stops. This, this. Left foot, two stops. This, this. Slide to the left. This is all. Slide to the right. This is all. Crisscross. This, this. Crisscross. This, this. Smooth. This is all wrong. Oh, yeah. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. One, two, three. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. Featuring the platinum band. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. We will not let you get away with this. We're going right here, right now, is where we draw the line. The world is... Spacca. Sì, decisamente. Tra l'altro, fuori dalla diretta commentavamo ridendo, non so se l'avete visto, cercatelo se non l'avete visto, il video di questa sua performance in diretta, dove c'è il padre che fa dei goffi tentativi di deadsplaining, chiamiamolo così, con lei che lo rimette al suo posto, ma proprio con delle facce e con... veramente spacca. Grande, grande. Ci sentiremo parlare ancora di lei, speriamo. Ma speriamo, cazzo, speriamo. Va bene, allora. Allora, ragazzi. siamo... Ah, scusatemi, no, annuncio, mentre ascoltavamo Fat Girl Slim, abbiamo lanciato la diretta in contemporanea anche su Radio Virus, quindi da questo momento, oltre che su Radio Lotto tutto l'anno, ci sentite anche su Radio Virus, così moltiplichiamo i nostri deliri in diretta. Esatto, se posso dire, per far divertire la gente, quel video si può trovare sulla pagina di Fatboy Slim, ovviamente, di Facebook, si vede questa ora di diretta con la mitica Fat Girl. Sì, c'è anche su YouTube, ormai è ovunque veramente. Figo, figo, figo. Bene, bene, bene. Allora, torniamo a noi. Primo maggio, lotta un po' disincarnata, si potrebbe dire quest'anno, ma che ha cercato tutte le forme possibili per rimanere salda. Noi lo abbiamo detto, abbiamo... Vabbè, questa cosa della radio in verità la facciamo ormai da un tempo infinito, mi sembra, perché già da prima dell'8 marzo avevamo cercato uno strumento che potesse essere attraversabile e partecipabile anche in questa fase di pandemia. Oddio, l'8 marzo ancora non avevamo chiaro che saremmo entrate in pandemia, avevamo però chiaro che stavamo attraversando una fase in cui il rischio era di escludere dalla lotta politica tutti quei corpi, tutte quelle soggettività che non volevano, non potevano mettere a rischio la propria salute, e quindi per noi era importante trovare uno strumento che fosse attraversabile da tutte, da tutto e da tutti, e speriamo di averlo trovato. E continuiamo anche con questo primo maggio, con questo tentativo, un po' a bestia l'abbiamo definito, perché almeno l'8 marzo eravamo tutte assieme, invece adesso ci abbiamo Gizzi e non riusciamo neanche a vederci, ma proviamo lo stesso, non fare troppo casino. E... Per questo, se qualche volta sentite qualche pausa di 2 secondi, è perché non ci vediamo e cerchiamo di non parlarci sopra. Esatto. Eh sì, va detto, no? Va detto. Esatto. Va bene, sentite, sempre in tema di storture della quarantena e follie tutta l'italiana, Fede, vuoi raccontarci di quel meraviglioso sondaggio del Corriere che, di cui ci parlavi fuori dalla diretta? L'hai tirato fuori adesso? Guarda, mi piace perché mi fai le cose a surprise. Così, a surprise, non ce l'hai sotto mano, ce l'ho sotto mano, scusate. Ho tutto sotto mano. Avevo tutto sotto controllo. Cercherò di epurare questi commenti dalle bestemmie che le compagne hanno sentito nel fuori onda. Il Corriere della Sera, per occupare il tempo, non sapendo cosa fare, ha deciso di fare un sondaggio insieme al Laboratorio Futuro, che rinomineremo noi Laboratorio Anni 50, perché hanno scelto questo campione di persone e hanno deciso di fare 3 domande principali. Neutre, oserei dire, Fede. Neutre, in cui, guarda, veramente... Ma tra l'altro posso dire un'altra cosa, è bello lo spartito donne maschi. Donne maschi. In questo modo, donne maschi. È bello sia donne e maschi, ma è bello anche che l'Italia è stata paragonata alla Danimarca con il campione, giusto per farlo tempo e per far vedere in che brutto posto siamo e che dobbiamo comprarci un biglietto per la Danimarca praticamente, oppure distruggere quello che c'è qui. Quindi le domande che sono state poste, o meglio le affermazioni a cui le persone dovevano dare accordo sono le seguenti. Un lavoro è importante, ma quello che le donne vogliono veramente è una casa e dei figli. Le bestemmie, riempitele a piacere voi. E abbiamo un 63% di donne d'accordo e un 71% di maschi d'accordo, perché loro ne sanno di più. Un po' di più di voi. Scusate, mi sento male. Danimarca, 11%. Maledetta. Seconda magnifica affermazione: i padri sono in generale capaci quanto le madri di curare i figli, perché nel particolare no. Però in generale possiamo dargli una chance, possono fare, insomma. Si è preso dalla parte donne e dalla parte maschi un 18%. Benissimo, perché sono chiaramente inabili. Mentre in Danimarca, vabbè, non ve lo leggo nemmeno perché no. Mi viene da piangere. E terza affermazione: situazione grandiosa, perché stanno preparando, no, il post fase 2, quello in cui ci rinchiuderanno in casa. Una madre che lavora può stabilire una relazione sicura e intensa con suo figlio. Tanto quanto una madre che non lavora. Niente, raga. Comunque, cioè, aiuto. Relazione sicura e intensa. Aiuto. Abbiamo donne 14% e maschi, che sempre ne sanno un po' di più, 29%. E vogliamo parlare della Danimarca? No. No. No, perché stanno sopra il 64%. E non vogliamo piangere così tanto. Io, come commento a questo sondaggio, manderei Kalashnikov di Anna Mancini. Cosa ne dite? Perché mi sembra l'unica risposta possibile, eh? Azzeccato. Dai, e col Kalashnikov. Ci sembrava proprio l'unica cosa da dire a proposito del sondaggio del Corriere. Maledetti. Non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire, a parte maledetti. No, c'è una cosa da dire, se me la fate dire, che è ACAB. Sì. Che non, come dire, che forse non, potrebbe sembrare che non c'entra tanto col Corriere, ma ci sta sempre bene negli impropri. E quindi adesso ve la mandiamo anche cantata e arrotata e sciabolata dalla favolosa voce di Elisa Tron. Cosa dite? Io dico ACAB. ACAB. ACAB. Indietro dito. ACAB. ACAB. Siamo tutte precari. E all cops are bastards. Lorena Pop, it did nothing wrong. ACAP. Oh, de la mia scusa. Oh, ma c'ho nemmeno. Apri, apri, apri, apri. ACAP, ACAP, ACAP, ACAP, ACAP, ACAP, ACAP, ACAP, ACAP. E niente, quindi l'altra risposta era Riot e ACAB e abbiamo pensato di mandarvelo così. Beh, quale modo migliore, scusa. Infatti. Va bene, di cosa vogliamo parlare? Perché ne abbiamo a pacchi. Abbiamo ancora un contributo di quelle che è arrivato, di quelli che sono arrivati nel gruppo Telegram. Magari cogliamo anche l'occasione per ricordarvelo, che abbiamo un canale Telegram che si chiama Diretta Radio Lotto tutto l'anno. Lo trovate se cercate su Telegram, nell'apposita sezioncina. Qui potete interagire direttamente con noi in diretta. Se ci mandate i vostri vocali, noi li raccogliamo e li mandiamo in diretta. Quindi, dicevo, possiamo mandare un altro dei contributi che ci sono arrivati? Assolutamente sì, perché è molto interessante e riguarda i centralini. Va bene, allora ascoltiamo la voce dai centralini e poi torniamo con i nostri deliri. Ciao, sono Mari della Brigata Elena Modotti. Io rispondo al centralino e ho sotto mano ogni giorno la situazione drammatica che le persone stanno vivendo. Principalmente, tra l'altro, sono badanti e persone che svolgevano babysitter, persone che svolgevano lavori di pulizia. Questo è principalmente il tipo di persone che chiamano disperate, perché ovviamente da 2 mesi non ricevono nulla, e non solo, ma come sappiamo i loro lavori futuri non sono per niente assicurati. Noi tra l'altro abbiamo anche avuto una formazione relativa alla violenza contro le donne, e quindi cerchiamo di vedere se quando ci rispondono donne riusciamo eventualmente a chiedere se va tutto bene, e nel caso siamo pronte ad aprire le orecchie e tutti i sensi per eventualmente intercettare i problemi che ci potrebbero essere e quindi direzionarle verso altre situazioni. Allora, abbiamo sentito sì, la voce di Mary dal centralino della Lena Modotti. Abbiamo mandato oggi diversi contributi che arrivano dalle brigate, perché sono state un pezzo determinante per la tenuta di questa quarantena. E oltretutto, come Mary raccontava nel suo messaggio, in questo periodo, e cogliamo l'occasione per anticiparlo, poi avremo sicuramente modo di approfondire questa cosa in radio, le brigate si stanno attivando anche direttamente sul tema della violenza contro le donne e la violenza di genere, perché appunto in questo momento, dove grazie a questo loro lavoro così potente sono così visibili e arrivano davvero in modo capillare a tutta la città, hanno pensato, e noi con loro li abbiamo sostenuti, che fosse importante anche diventare spazi safe, luoghi riconoscibili come tali, così da poter raccogliere anche le richieste e così la voce delle donne, di chi ha bisogno in questo senso. Ciao, sono tornata, sono Elisa. Volevo ciao dire... Eli! No, sono andata a stendere. Molto bene, il lavoro di cura. Non finisce mai. No. Esatto, non finisce mai, no. È una tortura, citto. È una tortura, questo, esatto. No, volevo dire che sto scoop, io ieri ho partecipato proprio a questa roba di Ambrosia che... faceva, insomma, spiegava per le brigate la violenza di genere, insomma, sono così, no, è stato molto molto molto utile, ecco, secondo me, sapere che i centralinisti hanno una formazione così, anche le persone che vanno a fare la spesa, che gli dicevano anche delle dritte su di questo genere, per chi va a fare la spesa, per le persone intercettare, ho pensato veramente grazie, che figata. È un'esperienza super figa questa dell'attività di formazione con le brigate. Tanto amore per le brigate. Ma anche perché, essendo così eterogenee, no? Le persone all'interno delle brigate, avendo storie diverse, momenti della vita diversi, arrivare a un confronto con così tante persone, sicuramente è uno dei modi migliori, no? Con cui usare questa quarantena, visto sì. Che dobbiamo ribaltare delle cose, diciamo che sicuramente questa è una cosa inedita anche, no? Assolutamente. Sì, ma anche non solo la quarantena, io sono perché le brigate rimangano anche dopo, appunto, chiediamo un reddito, non vogliamo più lavorare, e per esempio le brigate che stanno facendo un servizio super utile, però è una cosa che secondo me dovremmo portare avanti in qualche modo, no? E quindi già pensare come infrastrutturarle potrebbe essere un'idea per cambiare quella normalità, no? A cui non vogliamo tornare. Assolutamente. Ma bisogna portarla avanti perché la povertà non è data dal Covid, no? È lì, esatto. C'è sempre, quindi assolutamente. La povertà è lì, c'è sempre e lo sappiamo, abbiamo continuato a ripeterlo, la pandemia, cioè come dire, se pensiamo di essere nella merda ora, lo saremo di più dopo, no? Quando se si ripartirà, perché ovviamente in questo momento chi era ai margini, chi era in difficoltà lo è sempre di più. Quindi lunga vita alle brigate. Sì, sì, sì, sì. Visto che andrà sempre peggio, ma no, perché no. Tutti noi ci auto-organizzeremo, tutte tra di noi, e facciamo una rete che spacca. Esatto, continuiamo a dirlo, sì, però, no? Infatti anche nel manifesto che abbiamo citato in entrata, quello che si chiama Per uscire insieme dalla pandemia e cambiare il sistema, c'è una frase finale breve che volevo leggervi che dice: non vogliamo uscire da questa emergenza ancora più indebitate e impoverite, vogliamo un'uscita femminista transnazionale dalla crisi per non tornare a una normalità basata su disuguaglianze e violenza. E sì, quindi... Sì. Sì, questa pandemia è un'occasione, lo abbiamo detto tante volte, è un delirio ma è anche un'occasione, è un'occasione che non possiamo perdere per ripensare a quel altro mondo possibile, sempre per essere nostalgica, essere pronte a mettere in discussione i nostri privilegi, eh? Questo. È un po' questa la sfida che riguarda tutti, ma anche tutte, va detto, e tutto, per cui questa è la sfida. È vero. Sì, sì. Sì. Io volevo a questo punto, sempre perché ci piace saltare di palo in frasca, forse può sembrare, noi in verità abbiamo, c'è un filo conduttore nei nostri cervelli, può non sembrare, sappiate però che se cercate bene un senso in quello che facciamo, diciamo, potrebbe esserci. La punk attitude. Sì, no, vorrei provare a tornare un attimo a bomba sulla questione del lavoro domestico. E volevamo farlo facendovi sentire un estratto di Donne, razza e classe di Angela Davis proprio sulla genealogia del lavoro domestico, e uno perché leggere e ascoltare Angela Davis fa sempre bene, due perché, vabbè, lo abbiamo continuato a ripetere, il lavoro domestico, il lavoro di cura è uno dei temi centrali chiave in questa fase di pandemia ed è una di quelle cose che o scardiniamo ora oppure riot perenne, mi sentirei di dire. Quindi sentiamo Ludo che ci legge Angela Davis e poi torniamo in diretta. Angela Davis, Donne, razza e classe. Il consolidamento del capitalismo industriale ha aumentato la spaccatura tra il nuovo e il vecchio sistema di produzione economica, la cui ricollocazione fisica, provocata dalla diffusione del sistema di fabbrica, fu senza dubbio una trasformazione drastica. Ma ancora più radicale fu la ridefinizione generale della produzione, imposta dal nuovo sistema economico. Mentre i prodotti lavorati in casa derivano il proprio valore innanzitutto dalla capacità di soddisfare i bisogni familiari basilari della famiglia, le merci scambiate in fabbrica si definivano per il proprio valore di scambio, ovvero la capacità di soddisfare la domanda di profitto degli imprenditori. Questa nuova concezione della produzione economica rivelava, al di là della distanza fisica tra casa e fabbrica, una fondamentale separazione strutturale tra l'economia domestica e l'economia orientata al profitto. Poiché il lavoro domestico non genera profitto, fu definito naturalmente come una forma inferiore in confronto al lavoro salariato di matrice capitalista. Un significativo effetto collaterale di questa radicale trasformazione economica fu la nascita della casalinga. Le donne iniziarono a essere ridefinite ideologicamente come le custodi di una vita domestica ormai svuotata del suo valore. Eppure questa ridefinizione fu fisicamente contraddetta dalla quantità di donne immigrate che inondarono le file della classe lavoratrice del Nord-Est. Queste immigrate bianche erano innanzitutto delle salariate e solo in secondo luogo delle casalinghe. E poi c'erano altre donne, milioni, costrette a sopportare lontano da casa le pene del lavoro forzato, nell'economia schiavista del Sud. La realtà dei fatti sul ruolo delle donne nella società statunitense del XIX secolo parla di donne bianche che passavano le giornate a far funzionare macchinari industriali per salari da miseria e di donne nere che lavoravano in condizione di schiavitù. La casalinga rifletteva una realtà parziale, personificava la prosperità economica delle classi medie emergenti. Benché questa figura avesse le sue radici nelle condizioni sociali della borghesia e delle classi medie, l'ideologia del XIX secolo impose il ruolo della casalinga e della madre come modelli universali di femminilità. Poiché l'ideologia dominante rappresentava il lavoro domestico femminile come una vocazione di tutte le donne, quelle che erano costrette a svolgere un impiego salariato iniziarono a essere trattate da complete estranee nel mondo maschile dell'economia pubblica. Avendo messo piede al di fuori del loro ambito naturale, le donne non potevano essere trattate come lavoratrici salariate a pieno titolo. Il prezzo da pagare prevedeva lunghi turni di lavoro, condizioni al di sotto dello standard e salari insufficienti. Le donne, di fatto, potevano essere sfruttate persino più degli uomini. Inutile a dirsi, il sessismo divenne per i capitalisti una fonte ulteriore di profitto. Asesu olodo kai kai kai yemaya olodo kai kai kai asesu olodo la dio ke la dio ke la dio ke la dio ke la dio ke la dio ke yemaya olodo awalodo mio Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio. I'm disciplined, I'm disciplined. We're them ghetto bitches, speaking in tongue bitches. Fall on the floor, I say to the door. Beat them ghetto bitches, speaking in tongue bitches. Fall on the floor, I say to the door. Beat them ghetto bitches, speaking in tongue bitches. Fall on the floor, I say to the door. Beat them ghetto bitches, speaking in tongue bitches. Fall on the floor, I say to the door. Talk shit, we the cast battle. Long weeks, long nails, long rope, pigtails. Baby fuck, still in jail. Good witches I fuck with. Bad bitches, we run shit. Four bitches, four corners. North, east, west, south shit. Good witches I fuck with. Hot door for my broomstick. Witchcraft, bitchcraft. Light magic is nothing. I reach in my altar. I reach in my altar. I reach in my altar. I'm that black Puerto Rican bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Arabic, that original people. I'm that black native American, I vanquish your evil. I'm that black Puerto Rican bruja straight out from the Yoruba. And my ancestors Nigerian, my grandmas was brujas. And I come from an island, and it's for Puerto Rico. And it's one of the smallest, but it got the most people. I reach in my altar, I reach in my altar, I reach in my altar, got coins on the counter. I reach in my altar, I reach in my altar, I reach in my altar, got coins on the counter. Don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy. Casting spells with my cousin, I'm the head of this coven. I'm a shape-shifting bitch, you don't know who you loving. Better light you a candle, I heard the nighttime was black. And if you don't watch your step, the greatest bitch will be back. I cast a circle in white, and I can vanquish your spike. And if you hex me with hate, then I'ma conjure the light. Your evil way Eccoci. Eccoci di nuovo. Sì. Cosa ne dite se leggiamo l'articolo di Lea Melandri che è uscito oggi sul Manifesto? Sì, assolutamente, anche perché mi pare calzantissimo anche col pezzo che abbiamo mandato di Angela Davis, per cui vai! Esatto, allora il titolo è Divisione sessuale del lavoro, la normalità che non ci piace. Il coronavirus ha fatto risaltare vecchie contraddizioni. Premetto che leggerò alcuni pezzi, non tutto perché è un articolo molto lungo, però ci tenevamo a leggervi. Che cos'è cambiato nella situazione attuale? Perché il coronavirus ha portato allo scoperto legami che già esistono, ma rendendoli al medesimo tempo così sfuggenti? C'è una difficoltà evidente, perché ha conosciuto una sottomissione di secoli a uscire da quella che chiamiamo guerra tra poveri. La contraddizione che vede le donne esaltate immaginativamente e storicamente inesistenti, per usare le parole di Virginia Woolf, pesa ugualmente su madri e maestre, così come su tutte le donne impegnate nei servizi alla persona, dalle infermiere alle assistenti familiari e sociali. Sono loro ad aver affrontato finora i maggiori rischi nel rapporto con anziani e malati, il maggior carico di lavoro, sia in casa che fuori, in una vicinanza troppo stretta o in una forzata lontananza dai loro affetti. In una lettera pubblicata sui social, un'operatrice sanitaria scrive: «Molti di noi hanno scelto di allontanarsi dal proprio nucleo familiare per mettere in sicurezza i propri affetti ed evitare che possano essere a loro volta soggetti all'infezione. A sua volta, una docente di scuola superiore, Beatrice Vela, a proposito delle ripetute richieste per la riapertura immediata delle scuole, perché altrimenti le mamme devono lasciare il lavoro, in un articolo su Facebook giustamente fa notare che la funzione principale della scuola non è badare ai figli degli altri mentre sono al lavoro, ma garantire il diritto di istruzione alle persone. Se i figli sono ancora il problema principale per le madri e se la scuola è considerata un'estensione della funzione materna, aggiunge, responsabile è il patriarcato». Boom. Allora, intanto scusatemi, non ci tenevo a dire una cosa, nel senso, grazie Madu per aver letto degli stralci e grazie soprattutto a Lea, che arricchisce sempre le nostre riflessioni. Peraltro Lea in questo momento è probabilmente, che avremmo voluto averla in diretta con noi, però in questo momento probabilmente è invece in diretta sul canale radio della Casa Internazionale delle Donne, e quindi cogliamo anche l'occasione per salutare le nostre compagne romane, così come le compagne di tutti i nodi della rete di Non Una di Meno. Va bene, scusate, volevo fare questo spottino. Spottino che andava fatto. Spottino che andava fatto. Va bene, allora ci stiamo lentamente avviando verso la chiusura di questa diretta del primo maggio. Abbiamo ancora però un sacco di contributi che ci sono arrivati e che ci teniamo a farvi sentire. E non so, ragazze, cosa vogliamo mandare? Dite, scegliete, esprimete un desiderio. Ma io manderei tutto. È capitato però davanti agli occhi un dato che volevo riferirvi anche rispetto all'articolo che abbiamo appena letto. Vai, che dice però: la pandemia aggrava la condizione femminile, il 72% dei lavoratori che rientrano il 4 maggio sono... Indovina, aspetta. Uomini. Ma va? È strano, ma molto strano. Ma è strano, vero, compagna, ma io non me lo spiego. Deve essere così anche forse per quelle intuizioni geniali del sondaggio del Corriere della Sera, di cui prima? Sì, quanti d'accordo, e sottolineo tutti. Tutti, comunque, soprattutto punto, tutti. Esatto, io esprimo un desiderio che è... Zan, zan, zan. Non ho capito qual era il tuo desiderio. Farris, vorrei la lettura di Elisabetta. Concordo. Ok, va bene, vale. Peraltro tu pensavi di cogliermi in castagna e invece ho tutto sotto controllo. Quindi ora mandiamo subitissimo questo pezzo di Farris letto da Elisabetta, che, come dire, per essere estremamente sintetica e tagliarla con l'accetta, parla di femonazionalismo. E poi torniamo in diretta con tutti gli impropri e le bestemmie che ci contraddistinguono. Anche nella forma retribuita, il settore domestico e di cura rimane uno dei mercati più femminilizzati. Questo significa che la maggior parte della forza lavoro impiegata in questo settore è femminile, ma anche che la costruzione sociale della femminilità è stata a lungo associata con questo lavoro ed è quindi diventata uno degli elementi fondamentali nella definizione delle competenze, della cultura e dell'identità del lavoro di cura. Inoltre, come sostiene Elma Lutz, questo lavoro non è soltanto un altro mercato del lavoro, o meglio, non è mero lavoro, ma una specifica attività connotata in termini di genere. In questi termini la cura si lega sul piano emotivo e morale ai significati e alle definizioni di chi siamo noi in quanto donne e uomini e chi desideriamo essere. In altre parole, il lavoro domestico è centrale nella costruzione del genere e nella perpetuazione dell'ordine sociale di genere esistente. L'esternalizzazione del lavoro domestico e di cura a un'altra donna è socialmente accettata perché segue e riproduce la logica dell'espressione del genere in conformità con la sua costruzione ideologica istituzionalizzata. Oltre che essere un'attività storicamente e culturalmente costruita come femminile e basata sulla chiamata in causa e sulla performance della femminilità, una componente fondamentale, ma non esclusiva, del lavoro di cura è l'affettività, l'aspetto relazionale della cura. Tuttavia, il riconoscimento del carattere emozionale della cura non deve portare a pensare in modo erroneo che si stia parlando solo di emozioni positive. Le emozioni o gli affetti implicati nel lavoro di cura retribuito possono assumere diversi significati per la lavoratrice, per le migranti in questo caso. I sentimenti come l'amore per i bambini o la persona anziana di cui ci si prende cura, ma anche la simpatia per un eventuale buon datore di lavoro, possono accompagnarsi al disgusto, all'infelicità, a un senso di asservimento. Questo ci ricorda, come afferma Gutiérrez Rodríguez, che i sentimenti non sono liberi flussi di energia, ma emergono e sono delimitati da uno specifico contesto storico-geopolitico. I sentimenti trascendono la materialità attraverso la loro energia, ma ne conservano delle tracce, poiché restano comunque connessi al contesto in cui emergono. L'espressione e la comunicazione dei sentimenti, dunque, ha luogo in uno spazio definito da relazioni di potere, storicamente prodotte, socialmente configurate, culturalmente situate. Accompagno! Non ci posso pensare, lasciatemi sfogare, ancora devo lavorare. Non so come tu puoi filmare dal bancone per ore, gente che scende e che sale, manco fosse un criminale, pensare di fare un atto d'amore. Per la tua nazione vi prego, pensiamo a che importa davvero, sta fabbrica la chiudiamo, se no scioperiamo, sai come possiamo fare, è un nostro diritto, Confindustria stai zitta che hai fatto di tutto, mi sveglio distrutta, però ti assicuro, se ancora non chiudi le fabbriche, non solo facciamo un casino, sta fabbrica la blocchiamo. Se no scioperiamo. Siete su tutta la gente che sta lavorando. Siete criminali. So che vi serve davvero questo se sincero. Noi lo occupiamo. Cosa vuoi che faccia? Non passa con una doccia. Se pensi che questo non ci tocca, come possiamo fare? È un nostro diritto. Confindustria stai zitta che hai fatto di tutto. Mi sveglio distrutta, però ti assicuro, se ancora non chiudi le fabbriche, non solo facciamo un casino, sta fabbrica la occupiamo e poi scioperiamo. Io saprei, vorrei e scioperiamo. Oh, che mi sembri sincero, però non mi fido. E la occupiamo. brutta sarò, vi dovete nascondere! Ecco, ci siamo tornate e dopo avervi fatto sentire appunto questa lettura abbiamo pensato di mandare un contributo che noi amiamo moltissimo, che ci arriva dalle compagne di Bologna, in particolare da Atena, perché ci siamo dette, no, mentre eravamo fuori dalla diretta, che eravamo super gasate anche da tutte le letture fichissime che avevamo scelto per questa puntata, ma pure che ci saliva il rancore e la carogna per tutte queste vicende. E quindi ci sembrava che mandare in pompetta Atena, che maledice Confindustria e grida "questa fabbrica la chiudiamo", fosse un ottimo esorcismo e anche, come dire, un ottimo esercizio energetico. Che tra l'altro anche oggi sentivo Covidustria, l'hanno chiamato. Proprio così. Diciamo che ci piace anche la pimpa. Ci piace anche la pimpa, esatto. Questa quarantena ci ha regalato alleate meravigliose. Va bene, ci dicevamo anche che, come dire, per incanalare questo rancore, questa rabbia, ci sono delle cose su cui non smettiamo di spingere, e l'abbiamo detto all'inizio, no? Ad esempio, uno dei primissimi temi che come Luna di Meno abbiamo sempre spinto e che per noi è chiave in questo primo maggio di lotta è quello del reddito e del reddito di autodeterminazione. Yes. Sì, è il momento di gridarlo ancora più forte, no? Assolutamente. Noi lo dicevamo, no? Lo abbiamo riportato nel piano. Riteniamo che innanzitutto il reddito di autodeterminazione sia l'unico vero efficace strumento per la fuoriuscita dalla violenza, punto primo. Ma questa non è una rivendicazione solo in questo campo. Noi rivendichiamo reddito di autodeterminazione per tutte, tutto e tutti. Ma soprattutto anche una misura di prevenzione. Assolutamente. Che per come siamo messe e messo, la prevenzione sulla violenza economica, psicologica, fisica, è assolutamente dirimente, no? Anche per questo periodo in cui purtroppo, nonostante un primo periodo in cui sembrava ci fossero meno chiamate anche ai centri di violenza, CADMI, eccetera, le chiamate sono salite vertiginosamente, quindi reddito di autodeterminazione è una misura che può prevenire anche il verificarsi di queste situazioni, ma non ci accontentiamo, vero? Non è solo il reddito di autodeterminazione. Sì, ma infatti fatemi leggere lo stralcio del piano, perché così mi galvanizzo, non perché... Vediamo tutto! Non perché... Sì, perché per continuare a dire che noi l'avevamo detto, ma abbiamo un piano e questo piano, nonostante sia stato scritto 4 anni fa, è ancora il nostro strumento. Allora, un reddito che noi definiamo di autodeterminazione incondizionato e universale, slegato dalla prestazione lavorativa, dalla cittadinanza e dalle condizioni di soggiorno. Un reddito che serva come garanzia di indipendenza economica e dunque concreta forma di sostegno per le donne che intraprendono percorsi di fuoriuscita da relazioni violente, intrafamiliari e lavorative. Più in generale, come strumento per tutte e tutto di prevenzione rispetto alla violenza di genere, di autonomia e di liberazione dai ricatti dallo sfruttamento, del lavoro purché sia, dalla precarietà, dalle molestie. Scusate. In tal caso si ritiene assolutamente inadeguato il reddito di inserimento, il REI, che all'epoca era stato varato dal governo, perché lontano dai principi dell'universalismo, dell'individualità e dell'autodeterminazione. Mera misura di contrasto alla povertà rivolta alle famiglie, come sappiamo primo luogo di origine della violenza, e non alla persona, condizionata a un percorso di inclusione lavorativa spesso utile solo alle aziende e alle amministrazioni per sfruttare manodopera a basso costo quando non a titolo gratuito. Allora, io questo ci tengo a dirlo, quando noi abbiamo scritto questo piano c'era in voga il reddito di inserimento, non che la storpiatura di reddito di cittadinanza che ha portato il Movimento 5 Stelle al governo sia meglio, anzi, come dire, c'è stata una sussunzione di un tema a noi carissimo in un modo veramente, non so, al limite del disgusto. Sì, Sì, però anche è vero che in questi giorni, diciamo, di proposte di reddito, comunque la necessità, no, di arrivare finalmente a un reddito, si stanno moltiplicando, no? C'è stata la proposta di BIN che in qualche modo ha alzato il tiro sul reddito incondizionato, c'è la proposta del reddito di cura del Green New Deal, della piattaforma Green New Deal, no? Sì. Secondo me è un'altra roba su cui, diciamo, che diventa... che diventerà o dovrebbe diventare già da oggi una, in un qualche modo una battaglia profondamente politica, e questo termine che è stato coniato in questi giorni, diciamo comunque che in questi giorni sentiamo molto, che è i lavori essenziali, no? Sì. E quindi capire quali sono quei confini è una scelta molto politica, e probabilmente dovremmo farlo noi, no? E non farcelo disegnare, diciamo, da altri che poi disegnano fasi 2, abbiamo visto, piuttosto paternaliste, ecco. Solo un po'. Sì, sì, sì. E quindi, insomma, sì, che cos'è essenziale non solo in termini, diciamo, per non far risalire sulla curva, no, epidemiologica, ma anche per in qualche modo cambiare il sistema produttivo, no? Cioè a cosa dobbiamo rinunciare per non tornare alla normalità, quindi produttivismo tossico, culto della crescita, e cosa invece dobbiamo pretendere oggi subito. Sì. Ma appunto sul pretendere reddito di autodeterminazione, però pretendiamo anche che ci sia un grosso cambio di passo, no? Rispetto a tutto quello che è il welfare, dalla sanità, che è la cosa più evidente, fino, ne parlavamo prima, al sistema educativo, per non parlare dei trasporti, cioè l'eccellenza lombarda era un'eccellenza, tra virgolette, eccellenza e comunque privata. Che ha dimostrato tutta la sua fallacità. Esatto, per cui reddito di autodeterminazione, ma pretendiamo anche una serie di cose, infatti anche parlavamo del 2008, ma anche oggi sulla casa, anche in questo periodo di quarantena, insieme a una delle battaglie sul reddito, reddito di quarantena, c'è tutto un discorso che si sta sviluppando anche in Italia sullo sciopero degli affitti. Ecco, è il momento di unire un po', no? I puntini. Unire le lotte, lo diciamo. D'accordo. Sempre, è il momento di farlo. E giusto appunto che stiamo dicendo di unire le lotte, abbiamo anche un audio su questo tema. Solo una piccola precisazione che vorrei fare. Io, care, sono ancora incazzata, cioè nonostante abbiamo parlato del fatto che volevamo esorcizzare la nostra rabbia, restiamo incazzate, immagino. No, ma perché noi non è che la esorcizziamo la rabbia, noi la trasformiamo, la rabbia ci muove. Okay. La rabbia ci muove e come... è la nostra benzina, il nostro animale totemico, ma anche appunto non so, siccome non mi viene con le mie parole, posso citare Audre Lorde, tanto per fare qualcosa di nuovo, che mi è capitato sott'occhio nel momento in cui l'hai detto, Fede, siccome ne parlavamo l'altro giorno. Noi non è che esorcizziamo la rabbia, ma la rabbia, espressa e tradotta in azione al servizio della nostra idea di futuro, è un atto di chiarimento liberatorio e rafforzativo, poiché è nel processo doloroso di questa traduzione che identifichiamo chi sono i nostri alleati con cui abbiamo profonde differenze e chi sono i nostri veri nemici. Boom! Boom! Ora, volevo dire una cosa. Siccome a noi prima di tutto ci muove il desiderio, ed è proprio questo che muove la nostra rabbia, la nostra lotta, le nostre rivendicazioni, proprio a proposito di desideri, ci è arrivato un contributo super ultra top, che quindi io volevo mandare. Posso mandarlo? Siamo curiose, ma mandalo. Siete curiose. Allora, io adesso mando questo contributo che ci è arrivato da Sophie, che è una nostra piccola ascoltatrice, piccola mica tanto, che parla proprio di desiderio. E tutti desideriamo qualcosa? I desideri sono come sproni che ci si ficcano nei fianchi e ci mandano avanti. Finché desideriamo qualcosa, siamo vivi. Abbiamo voglia di muoverci e di fare, cioè di vivere. Soltanto i sassi non desiderano nulla. Vogliono solo restare sassi e non sanno neanche di volerlo. Se fossero cavalli desideri, saremmo tutti quanti cavalieri. Se i desideri fossero tramvai, pedoni a terra non vedresti mai. Ecco, grazie Sofì. Brava Sofì. Brava, evviva. Va bene, ma sempre a proposito di quello che dicevamo poco fa, e quindi di Unione delle Lotte, abbiamo un altro contributo, vero Fede? Sì, abbiamo un contributo che è un estratto da Non è lavoro e sfruttamento, che è perfettamente in tema con la giornata di lotta di oggi. Sempre per nutrire la rabbia. Questo nutre la rabbia, raga. Da Marta Fana per Tempi Nuovi. Va bene, allora, nutriamo la nostra rabbia. Marta Fana, non è lavoro, è sfruttamento. Di precariato si muore quando al concetto di società si antepone quello di individuo. Ed è esattamente ciò che è stato fatto dalla Thatcher e da Reagan in poi, quello che hanno fatto tutti i governi che hanno tradito i lavoratori dalla fine degli anni 70 fino alle più recenti riforme del mercato del lavoro. È stato un impegno quotidiano. Costanza e tenacia. Le hanno provate tutte e ci sono riusciti perché sono rimasti coerenti con la loro idea e ogni giorno e ogni notte hanno lottato per raggiungere quell'obiettivo, uniti. Loro hanno vinto nel momento in cui sono rimasti uniti, perseverando nel disaggregare i lavoratori in quanto corpo sociale. Per farlo hanno avuto bisogno di molta creatività, di imporre, con una buona dose di maquillage, un nuovo volto al lavoro, eliminando dall'immaginario i bassi fondi, gli operai, escludendo dal racconto quotidiano la fatica dello sfruttamento, mascherando l'impoverimento dietro l'obbligo di un dress code. Come scrive Owen Jones a proposito del thatcherismo, l'obiettivo era quello di cancellare la classe operaia come forza politica ed economica della società, rimpiazzandola con una collezione di individui o imprenditori che competono gli uni contro gli altri per i propri interessi. Tutti avrebbero aspirato a rimontare la scala sociale e coloro che non l'avessero fatto sarebbero stati responsabili del loro stesso fallimento. Loro, i potenti, gli avidi, gli sfruttatori, hanno vinto perché sono stati coerenti, uniti, perché sono stati più forti nel tutti contro tutti. Dove i morti li abbiamo contati solo noi. Hanno vinto quando ci hanno chiamati bamboccioni imponendoci una partita IVA e siamo stati educati, silenti, accondiscendenti. Hanno vinto quando ci hanno detto che eravamo ciusi e abbiamo porto l'altra guancia. Hanno vinto quando abbiamo smesso di credere che uniti si vince anche noi. Boom! Abbiamo nutrito la rabbia. Sì, il problema è che non possiamo uscire e mostrarla, però sì, dobbiamo prendere un fazzoletto in più per tutta quella che è cresciuta. La stiamo facendo gonfiare, siamo pronte alla fase 2, che è quella del riot, se non ricordo male. Eh sì, sì, era quella. Va bene, allora ragazze, io per buttarla in cacciara un'ultima volta manderei Chadia Rodriguez e poi torniamo in diretta e ci salutiamo, va bene? Mi piace la più Dai, yeah, sisters. Sister, fa cala dal blister. Vogliamo spaccare e finire sulle riviste. Yeah, nada per fare successo fuori dall'ombra. Nada per fare del sesso dopo una bomba. Uno per il plus, due per il push. Araba con gli occhi verdi, odore di fumo e baba ganoush. Non andavo mai a scuola. Oh, yeah. Sognavo già i folli viola. Oh. Volo come un piper fuori per il lusso. Socie tatuate come un gangster russo. Canne già fumate, ostriche col guscio. Quante ne comprate? 10 grammi è giusto. Yeah. Basta per qualsiasi cosa sia. Basta che c'hai fogli che farti sentire sola. Paste blu te lo fanno salire su. Paste rosse con lo sciroppo per la tosse. Pasta gialla, questa è quella che ti sballa. Pasta viola per non farti sentire sola. Paste blu te lo fanno salire su. Paste rosse con lo sciroppo per la tosse. Pasta gialla, questa è quella che ti sballa. Pastiglie, va bene, abbiamo un minuto alla fine della diretta, no, non alla fine della diretta, ma alla fine dei nostri sproloqui. Anche perché dopo abbiamo una bella ora di musica. Dopo abbiamo una super playlist che ci ha regalato le DJ del nostro cuore, che ci grande farà ballare, le DJ, che ci grazie, farà, se ci farà ballare, ballare un botto. Va bene, è il momento dei saluti. Vuol dire ballare, di la verità. Bollese. Va bene, è il momento dei saluti. Allora ciao. Allora ciao. Buon primo maggio di nuovo e fra poco, oltre alla... E di lotta. E di lotta. Sentiremo anche un'altra lettura. Sì, esatto. Allora, in chiusura... ci sembrava doveroso, oltre che molto fico, mandarvi la lettura che con grande determinazione Ari ha fatto dell'appello femminista transnazionale che ha lanciato la chiamata di oggi, per cui ora quando noi attacchiamo i nostri deliri vi mandiamo il testo completo di cui abbiamo anche letto degli stralci durante la diretta e poi appunto la musica di Lady J. Noi torniamo in diretta lunedì sempre alle 19, sempre su Abbiamo un Dominio, e la settimana prossima partiamo ufficialmente col nuovo palinsesto, giusto compagne? Yeah. Sì, certo. Per cui abbiamo lunedì diretta, martedì autoru e pillole che abbiamo inaugurato settimana scorsa, per cui letture e musica a tema lavoro, perché ovviamente riprendiamo il primo maggio di Lotte. E poi mercoledì nulla, perché lo lasciamo libero il mercoledì, perché riprendono, anche se a settimane alterne, però le assemblee di cittadine di Non Una di Meno Milano, per ora ancora virtuali, speriamo presto di persona. E poi il giovedì invece trasmettiamo in contemporanea con Radio Z, e salutiamo le compagne e i compagni di ZAM, la puntata delle Ribelli. E venerdì torniamo in diretta con l'internazionalismo, se non sbaglio. Spero di non aver detto cazzate. Continuiamo il viaggio. Esatto. Che programma! Che programma, che bomba! Sempre per far montare la rabbia e tradurla, come ci dice Audre Lorde. E incontrarla dopo, speriamo. Va bene, compagna, è il momento. Allora ciao! Ciao, ciao, ciao a tutte. Ciao a tutti e a tutto. E ci sentiamo la prossima settimana. Ancora buon primo maggio di Lotta. Mi sono impapinata sul finale. Di veramente. Lotta, di lotta, di Lucia. Buon primo maggio di Lotta e di Lucia. Manifesto femminista transnazionale per uscire insieme dalla pandemia e cambiare il sistema. Non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema. Il movimento femminista e transfemminista globale non si arrende all'isolamento imposto da questa nuova crisi globale, sanitaria, economica ed ecosistemica, e non metterà a tacere le sue lotte di fronte alle misure restrittive che i nostri paesi stanno attuando per affrontare il coronavirus. In tutto il mondo ci sono donne e persone LGBTIQ asterisco che rifiutano di sottomettersi alla violenza esacerbata dalla pandemia globale e che cominciano a organizzarsi intrecciando le loro pratiche ribelli, potenziate dagli ultimi anni di scioperi femministi globali. Questa crisi evidenzia e intensifica la violenza e le gerarchie del patriarcato, del capitalismo e del colonialismo, così come le loro radici strutturali di oppressione, diseguaglianza e sfruttamento contro cui abbiamo sempre lottato e continueremo a lottare. È proprio nelle tensioni, nelle fratture aperte da questa crisi che emergono nuove forme di resistenza e di solidarietà di cui facciamo parte e a cui vogliamo partecipare e far risuonare globalmente attraverso la nostra voce collettiva affinché insieme si possa uscire dall'isolamento e scardinare i paradigmi dominanti, affermando conoscenze e pratiche femministe, transfemministe e antipatriarcali. Il coronavirus colpisce tutte e tutti. Ma gli effetti della pandemia sono diversi, ancora più se li guardiamo da una prospettiva transnazionale, che parte dalle nostre posizioni di donne e soggettività libere. Ci è stato detto di stare a casa, senza considerare che le case non sono i luoghi sicuri per molte di noi e che ci sono persone che non hanno nemmeno una casa. I femminicidi e la violenza contro le donne e le persone LGBTIQ si sono intensificati dall'inizio di questa crisi e le misure di quarantena e di coprifuoco hanno reso ancora più difficile ribellarsi alla violenza maschile e di genere e affermare la nostra volontà di libertà e di autodeterminazione. La crisi sta mettendo sotto attacco le diverse condizioni materiali della riproduzione, intensificando e precarizzando maggiormente il lavoro produttivo e riproduttivo delle donne e delle persone LGBTIQ. Questi lavori, che sono sempre stati invisibilizzati e sfruttati, ora si mostrano in tutta la loro necessità, rendendo evidente la centralità politica che hanno e che abbiamo sempre affermato. Da un lato, il sistema patriarcale scarica sulle donne l'assistenza e la cura degli anziani e dei bambini, aumentando ancora di più il peso del lavoro domestico. Dall'altro, ci sono molte donne che occupano la prima linea in questa emergenza: infermiere, mediche, addette alle pulizie, cassiere, operaie, farmaciste, lavorando in condizioni pericolose per la loro salute, con orari estesi e spesso con salari miseri. I lavori domestici e di cura, così come molti lavori precari e informali, sono spesso svolti da donne migranti, afrodiscendenti, nere o indigene, che non solo sono ora licenziate e non hanno la possibilità di mantenersi o di pagare le spese mediche, ma si trovano anche senza permesso di soggiorno, più vulnerabili agli attacchi razzisti e più esposte alle conseguenze sanitarie ed economiche del contagio, poiché spesso vivono nelle zone più popolate e povere. Così, da un lato, le nostre vite vengono sacrificate per sostenere questa crisi, mentre dall'altro i corpi e le vite che non sono valorizzabili per il profitto, come quelli delle persone disabili, vengono semplicemente invisibilizzati. Nelle comunità indigene native, le donne intensificano il loro lavoro di cura e di sostegno alla vita, continuando al tempo stesso a produrre il cibo necessario per sostenere la città, sottolineando il ruolo centrale nella produzione di cibo e nello sviluppo di misure di appoggio reciproco per affrontare la pandemia. Alcuni paesi aprono le frontiere ai migranti solo quando il loro lavoro è considerato necessario a garantire la catena agroalimentare in tempi di pandemia, mentre altri paesi chiudono le frontiere non solo ai migranti, ma anche ai loro abitanti, non permettendogli di tornare al loro territorio o lasciandoli in campi profughi sovraffollati e violando il loro diritto alla salute. Nei molteplici fronti di guerra e nei territori in ribellione, come quello curdo e quello palestinese, l'invasione e l'occupazione patriarcale e imperialista complica la possibilità di ricevere trattamenti adeguati, intensificando l'attacco alla rivoluzione delle donne curde e alla lotta di tutte le donne e soggettività che vogliono essere libere dal dominio coloniale e patriarcale. Mentre oggi più che mai la salute e la vita si affermano come questioni collettive e politicamente centrali, anni di politiche neoliberali hanno imposto una logica di responsabilità individuale per gestirle, anche se con diversi gradi di intensità. In molti paesi sono stati effettuati tagli al sistema sanitario e al welfare, lasciando migliaia di persone senza cure e costringendole ad affrontare le carenze degli stati, istituendo reti di solidarietà e di sostegno per prendersi cura l'una dell'altra. In altri paesi, invece, non è mai esistito un welfare, un sistema sanitario pubblico, e la situazione è stata ulteriormente aggravata dalla diffusa attuazione di piani di austerità economica. Inoltre, in molti casi, la crisi viene utilizzata per limitare ulteriormente le libertà sessuali e riproduttive delle donne e delle persone LGBTIQ. Da un altro punto di vista, il neoliberismo mostra il suo volto più brutale nella militarizzazione e nella securizzazione degli spazi urbani e rurali e dei territori recuperati dalle comunità indigene da parte delle forze armate, che approfittano dell'emergenza e della fragilità democratica dei governi per mettere a tacere ogni traccia di rivolta, criminalizzare le reti di solidarietà che stanno emergendo e garantire la catena di comando di stati che diventano sempre più autoritari e repressivi. E infine diventa ancora più evidente che non è possibile accettare la devastazione ambientale ecosistemica che, subordinando tutte le specie viventi e le risorse naturali alle esigenze di profitto del capitale, favorisce quegli stessi squilibri che hanno permesso la diffusione del coronavirus. L'estrattivismo, la produzione alimentare industriale su larga scala, le monoculture intensive e l'inquinamento condannano milioni di persone a una nuova crisi alimentare senza precedenti. La pandemia sta mettendo a nudo l'insostenibilità dell'organizzazione capitalistica, patriarcale e coloniale della società, così come la crisi preesistente del neoliberismo. La nostra lotta non deve mirare solo alla nostra sopravvivenza di fronte al contagio, ma deve trovare soluzioni alle immense conseguenze che questo avrà sulle nostre condizioni economiche e materiali. Riteniamo che le risposte dei governi siano del tutto insufficienti e rifiutiamo tutte le politiche che continuano a finanziare le aziende invece della sanità e approfittano della pandemia per consolidare progetti estrattivi. Sebbene le misure statali siano eterogenee, la risposta capitalistica alla crisi segue la stessa logica in tutto il mondo, ossia anteporre i profitti alla nostra vita, scaricando su di noi i costi di questa crisi e producendo effetti a lunga durata. Non vogliamo uscire da questa emergenza ancora più indebitate e impoverite. Vogliamo un'uscita femminista transnazionale dalla crisi per non tornare a una normalità, tra virgolette, basata sulla disuguaglianza e sulla violenza. In tutti i quartieri popolari si stanno organizzando ruidazos per denunciare l'aumento dei femminicidi e le violenze domestiche. In tutto il mondo le lavoratrici domestiche denunciano la loro totale precarietà e la mancanza di diritti. Infermieri e mediche protestano contro la mancanza di protezioni, dichiarando che la loro vita non è disponibile ad ogni costo. Migliaia di lavoratrici e lavoratori dei magazzini logistici e delle fabbriche scioperano perché si rifiutano di sacrificare la loro salute per gli interessi delle aziende. Nelle comunità, le donne indigene continuano a lottare contro la realizzazione di progetti estrattivi e l'espropriazione dei territori e delle risorse comunitarie. In ogni prigione, le prigioniere politiche denunciano le condizioni disumane di detenzione all'interno di complessi militari estremamente razzisti. Ovunque, le persone afrodiscendenti e nere denunciano il razzismo istituzionale nella gestione della pandemia e le immigranti reclamano il permesso di soggiorno per non essere più sottoposte a condizioni che intensificano lo sfruttamento e la violenza. Le sex workers continuano a chiedere la decriminalizzazione del loro lavoro per non essere più escluse dagli ammortizzatori sociali e stigmatizzate dal sistema patriarcale capitalista coloniale. In Rojava le donne curde nel mezzo della resistenza della guerra stanno rispondendo alla pandemia rafforzando la loro auto-organizzazione confederale attraverso i confini, la salute comunitaria ed espandendo le reti di economia autogestita ed ecologica. Dalle nostre diverse condizioni materiali, pluralità di linguaggi, eterogeneità di pratiche e complessità dei discorsi, ci impegniamo a sostenere, rafforzare e intrecciare le nostre lotte, resistenze e forme di solidarietà, così come quelle che stanno emergendo spontaneamente a livello globale e sono centrali per rilanciare la nostra iniziativa futura. Quello che lo sciopero femminista globale ci ha insegnato in questi 4 anni è che quando siamo insieme accumuliamo la forza necessaria a ribellarci alla normalità, tra virgolette, patriarcale e oppressiva. E ora più che mai dobbiamo muovere le nostre milioni di voci nella stessa direzione per evitare la frammentazione che la pandemia ci impone. In questo momento non possiamo inondare le strade con la nostra potenza femminista, ma continueremo a gridare tutta la nostra rabbia contro la violenza di un sistema che ci sfrutta, ci opprime e ci uccide, indicando i colpevoli per poter tornare ancora più numerose a prendere la prima linea. Non fermeremo questo processo di liberazione femminista e transfemminista transnazionale che stiamo tessendo in modo collettivo ed espansivo e continueremo a lottare per costruire la vita che vogliamo e desideriamo vivere. Invitiamo tutte e tutti coloro che rifiutano la violenza patriarcale, lo sfruttamento e il razzismo e il colonialismo a mobilitarsi e a unirsi per arricchire e rafforzare la lotta femminista globale, perché se ci uniamo possiamo non solo uscire dalla pandemia, ma cambiare tutto.

My name is Alejandro Jodorowsky. This is the history of Chinese man. The Chinese man create the power to celebrate the four energies with music, physical, intellectual, emotional, and sexual. Take your time, breathe, close your eyes, and listen. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Thank you. Baby, oh, Baby, you're